Senti sto libro che si sfoglia. Non lo capta. Oh, usa un po' di questi campioni per farci un beat. Tipo, usa... Thank you.